want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di JJ Telesco. Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Telesforo, questo è il Soundcheck, di nuovo in contatto con la prova del suono di Radio 24 con queste puntate speciali che ci accompagneranno fino al 6 di gennaio per festeggiare insieme con grandissima musica questo periodo di vacanze di Natale. Diamo il via con l'arte di Quincy Jones, musicista, arrangiatore, direttore d'orchestra, eccellente producer discografico, nato a Chicago il 14 marzo del 1933. Inizia a scoprire la musica da autodidatta sul pianoforte, che era a casa dei suoi genitori, per poi approdare alla tromba che gli viene un giorno regalata da suo padre. Quincy Jones, all'età di 10 anni, si trasferisce con la famiglia nei sobborghi di Seattle, dove diventa amico di un pianista cieco, solo 3 anni più grande di lui, di nome Ray Charles. Pensate, insieme Quincy Jones e Ray Charles, che formano così un duo e iniziano a esibirsi di pomeriggio al Tennis Club di Seattle e la sera in un piccolo jazz club. Nel 51, all'età di 18 anni, Quincy Jones vince una borsa di studio alla Berklee College of Music di Boston, che abbandona prestissimo per entrare nella big band del leggendario vibrafonista Lionel Hampton. E pensate, l'uomo più pagato nello show business americano oggi, allora prendeva una cifra irrisoria di $17 al giorno. Quincy Jones lo scopriamo subito qui al Soundcheck di Radio 24 con un arrangiamento di un classico dell'art bop scritto dal pianista Bobby Timmons per i Jazz Messengers di Art Blakey. Il brano si intitola Morning. Quincy Jones al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Arrangiamento spettacolare di Quincy Jones per la sua big band di un classico del jazz contemporaneo di allora, brano che portò fortuna al pianista Dave Brubeck, che era Take Five. Quincy Jones, trombettista, non aveva il talento di colleghi come Dizzy Gillespie, Art Farmer, Fats Navarro o Clifford Brown, ma aveva un dono inusuale, il dono della composizione e soprattutto dell'arrangiamento. Col tempo diventò uno degli arrangiatori più richiesti dalle grandi produzioni discografiche, ma anche un compositore richiesto a Hollywood. Inizia così, dal 1964, la carriera di Quincy Jones come compositore di colonne sonore, e questa è una dimostrazione. Ironside, Quincy Jones al Soundcheck. Quindi Quincy Jones viene richiesto anche da Count Basie come arrangiatore, lo richiede Sarah Vaughan, lavora per Dinah Washington con la quale ha una storia d'amore, lo richiede il batterista Gene Krupa, arrangia per Ray Charles, per Frank Sinatra, Barbara Streisand, Tony Bennett, e così la sua carriera si avvia nel gotha, nell'Olimpo della grande musica negli Stati Uniti, ma non perde il gusto di frequentare ottimi musicisti e lo fa anche per le sue produzioni discografiche. Questo è Killer Joe, un brano scritto dal sassofonista Benny Golson, ripreso, recuperato e riarrangiato da Quincy Jones. Shaggy, ducky, quack, quack. Kick that. Yeah. This is how we do it. Just lounging back, cooling out. And it cooling out with my girl Queen Latifah, you know what I'm saying? Hi, what's up, Tony? Oh, baby, you know I'm just cooling. How you doing? It's all love. Yeah, well, why we just kick it? Why don't we break out of here? Going over to Q's juke joint. Party down, you know what I'm saying? Nah, you know I ain't used to falling up in places like that. I ain't that type of girl. Yeah. What's going on down there? Soundcheck, il suono della musica. Soundcheck di oggi qui su Radio 24 vi stiamo raccontando la storia di uno dei grandi personaggi della black music di tutti i tempi, Quincy Jones, qui in un altro incontro fortunato, quello che fece nel 1969 con il comedian Bill Cosby, per il quale realizzò gran parte delle musiche proprio per il Bill Cosby Show. Quincy Jones ha incontrato gente che gli ha portato un sacco di fortuna, abbiamo già citato tutti i grandi artisti con i quali ha lavorato, ma ne manca uno. È sul set, infatti, del film musicale The Wiz, che era poi il rifacimento funky del Mago di Oz, Quincy Jones incontra Michael Jackson, che gli chiede di produrre il suo prossimo album da solista. Il risultato è Off the Wall, che raggiunge 20 milioni di copie vendute, facendo di Jones il più potente produttore discografico dell'industria musicale. Quincy Jones e Michael Jackson continuano a collaborare anche per Thriller e Band, e così vendono 110 milioni di copie. Potete immaginare che cosa sono 110 milioni di copie in dollari? Una cifra impensabile. Quincy Jones continua a fare musica, continua a produrre dischi anche a suo nome, e ultimamente lo ha fatto riproponendo questa sua versione di Soul Bossa Nostra, un vecchio classico del suo repertorio, un blues in chiave bossa nova, qui rivisitato con alcuni degli artisti della black music di oggi. Quincy Jones al soundcheck. Yes, sir. See, what we about to do right now is pay tribute to a living legend. So I brought Naturally 7 with me to do the beat. And I brought DCP's own Rudy Currents. And me, I go by the name of Ludacris, right? And it's a lot of people out there claiming that they bosses, but I'm here to let you know the true boss is back. Let's go! It's the rebirth of Q-Soul, Bossa Nostra. He's back. The true soul boss is over. Better respect the roots. I hope you're taking notice, because he's the dude. Sound check. Check, check, one, two. Il suono della musica. Se Quincy Jones è l'uomo più ricco dello show business internazionale, pare da una statistica fatta che il musicista più ricco sia il pianista di jazz Herbie Hancock. Beh, Herbie Hancock ha iniziato con il jazz, ma poi ha suonato tutto quello che gli passava per la testa. Ha iniziato a studiare il pianoforte all'età di 7 anni e subito dimostra di essere un bambino prodigio, e infatti nel 1961 soltanto ventenne, entra a far parte del quintetto di Donald Byrd, che da Chicago lo porta a New York, dove viene scoperto dai discografici della Blue Note. La carriera di Herbie Hancock è velocissima. Firma il suo contratto con la Blue Note nel 1962, realizza Taking Off, il primo album fortunato perché all'interno, fra i brani, c'è Watermelon Man, che oggi è uno degli standard più suonati del jazz contemporaneo. Nel 63 entra a far parte del quintetto di Miles Davis e quindi la sua carriera è avviata. Con Miles Davis si avvicina all'elettronica, forma una band chiamata It's Hunter e quindi si avvicina al funk e all'R&B e crea il suo personalissimo stile, dandogli la possibilità così di incontrare anche le star dell'R&B di oggi. Per esempio, un incontro fortunato quello che ha fatto per questa versione di St. Louis Blues di William Christopher Handy con il meraviglioso Stevie Wonder. Herbie Hancock e Stevie Wonder al soundcheck di Radio 24. Exactly how it all went down. Soundcheck, il suono della musica. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. Eh sì, Herbie Hancock, musicista versatile che qui abbiamo ascoltato in una bellissima composizione intitolata Stitch It Up, freschissima con la voce della pop star John Mayer. E per chiudere questa parentesi dedicata a Herbie Hancock, un altro incontro fortunato, quello con la vocalist Chaka Khan, con la quale dà vita a una composizione ritmicamente jungle intitolata The Essence. Herbie Hancock e Chaka Khan al soundcheck. What's your number? Do you know? Don't you think that it's time to wake up from your slumber? This is to be told. Look into the stars, the essence of our souls. This is who we are. Sound check. Check, check, one, two. Il suono della musica. Suono della chitarra inimitabile di George Benson al soundcheck di Radio 24 con la sua versione di The World Is a Ghetto, già successo per una band chiamata War. George Benson, contemporaneo di Herbie Hancock e di Quincy Jones, anche lui è un musicista che viene dal jazz, preparatissimo, con una grandissima predisposizione nel blues, si avvicina al mondo dell'R&B e del pop quando viene scoperto dal celebre producer americano Tommy Lee Puma, che mette a disposizione tutta la sua preparazione in studio di registrazione per realizzare per lui nel 1976 un album intitolato Breezin', con il quale vince il Grammy Award. Così si avvia la carriera di George Benson, che qui con Paddy Austin dà vita a un momento bellissimo nella storia della musica, come questo brano intitolato Moody's Mood for Love, scritto da un sassofonista jazz, James Moody, e questa è la versione vocale di George Benson e Paddy Austin. There I go, there I go, there I go, there I go. pretty baby, you are the soul who snaps my control. Such a funny thing, but every time I'm near you, I never can behave. You give me a smile and then I'm wrapped up in your magic. Music all around me. Soundcheck. Il suono della musica.